lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita, che in fondo lo so sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare su e giù dalla notte. 90 minuti per segnare, nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, pazzi come te nerazzurri, non fateci soffrire, ma va bene, vinceremo insieme. Amala, pazza intera amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza intera amala, vivila, questa storia vivila, e può durare una vita o una sola partita. Pazza intera amala. E continuerò nel sole e nel vento la mia festa. Per sempre vivrò, sempre vivrò con questi colori nella testa, nerazzurri, io vi seguirò nerazzurri, sempre li vivrò nerazzurri, questa mia speranza è l'essenza, non vivo senza. Amala, pazza intera amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza intera amala, seguila in trasferta o giù in città, yeah. Può durare una vita o una sola partita. Pazza intera amala. In mezzo al campo c'è un nuovo campione, è un tiro che parte da questa canzone, yeah. Forza, non mollare mai, amala, pazza intera amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza intera amala, amala, amala, pazza intera amala, amala. Oh,